chiedo solo un po' di vento fresco da passare in faccia. Chiedo appena qualche goccia da versarmi sulla bocca. Questo nuovo sentimento è duro da portare in spalla. Basterebbe una risposta che sollevi la mia sacca. Risvegliarmi dal mio sogno solo con il cuore in tasca. Camminare indietro scalzo, pochi passi sulla sabbia. Ritornare poi bambino, non penso che mi dispiaccia. Ma davvero del percorso, quel sentiero proprio non mi manca. È il passato che mi tocca, di sfiorare il cielo non mi importa. Del futuro che mi avanza, non voglio più aspettare di trovare gesti e le parole. Chiedo solo un po' di pace che si allenti la mia morsa. Basterà la spiaggia a frenare la mia corsa. Non è affatto un sentimento oscuro il buio che mi sbanda. D'altro canto tutto passa e l'amore a volte è un fuori onda. Solo un piatto che si scalda, un martello secco nelle ossa. Voglio più agitare come un cencio appeso ad una fune. Chiedo un punto di equilibrio quando affonderà la barca. Non voglio più impazzire, brancolare in vano tra le brume. Chiedo solo di guarire, dare un senso alla ragione.